Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. A lui è capitata Guernica. Con tutte quelle linee ed immagini spezzettate ho pensato che non sarebbe riuscito a capirci nulla. Già lo vedevo fissarmi, apatico, in attesa che gli dessi io una risposta. Lui invece guardava il libro concentrato e lentamente disse: «Hanno paura, è notte, stanno scappando». Capita delle volte che gli ascoltatori che hanno mandato il racconto, che hanno spedito la storia, che sono stati anche scelti per far parte di quella puntata, per fare in modo che quella puntata, cioè questa, diventi in sostanza un'esplosione della loro storia, non abbiano voglia di intervenire. Questo è il caso di oggi, è il caso di Gaia. Quindi oggi non sentirete la voce di Gaia, sentirete solo la sua storia. E voglio ringraziarla comunque, perché attraverso il suo racconto oggi ci dà modo di parlare di due temi, direi, altissimi oggi. Cosa che, infatti, poi domani torneremo a parlare delle solite cose. Adesso non mi ricordo che puntata c'è domani, non vorrei fare una gaffe. Oggi però parliamo di almeno due cose che hanno un certo interesse. La prima è una forma di disagio che si prova in alcune fasi della propria vita, ma soprattutto di cui possono soffrire alcune persone che spesso da giovani dal destro per un disagio particolare. Parleremo in parte di dislessia e in parte di autismo e dopo vi spieghiamo il perché. L'altra cosa di cui parliamo oggi invece è d'arte. Parleremo di opere d'arte. Lo faremo nella seconda parte di questo programma con un ospite che ci ha dato 10 minuti del suo tempo per spiegarci Guernica, ed è Marco Carminati del Sole 24 Ore, anzi della domenica del Sole 24 Ore. Lo facciamo però anche con voi, in questo modo, semplice, visto che il protagonista di questa storia raccontata da Gaia è un ragazzo che ha problemi di dislessia, che vede Guernica e ha una sorta di illuminazione. Allora oggi vorrei chiedere a tutti voi: qual è stato il quadro, l'opera d'arte? Ma parliamo proprio di quadri, non fotografie, non installazioni, no, parliamo di quadri. Qual è stato il quadro? L'avete guardato, eravate di fronte a quel quadro, avete avuto un'illuminazione, una sorta di folgorazione, e vi è sembrato di capire qualcosa, è sembrato che quel quadro vi facesse capire qualcosa. 349-238-6666 è il numero per mandare gli sms, altrimenti avete un profilo Facebook, un profilo Twitter, voi siete qui Radio 24 o voi siete qui R24, uno è Facebook, l'altro è Twitter, per cercare di raccontarci qual è quel quadro. Magari se ce lo descrivete, visto che non è che siamo proprio così preparati. Gerardo scrive: la notte stellata di Van Gogh, e quello più o meno ce l'abbiamo presente. Laura: il bacio di Klimt e l'urlo di Munch, che sembrano due parti del corpo, il bacio di uno e l'urlo dell'altro. E poi ancora Sara scrive: questo dipinto mi ha subito incantata, dopo 20 anni me lo ricordo ancora, mi ha fatto capire quanta meraviglia c'è nelle piccole cose. Adesso io dovrei dirvi qual è questo dipinto. Facciamo che se ci clicco sopra, io non so come si chiama sto dipinto. Ci sono delle bambine, ve lo desio però, ci sono delle bambine vestite da bambine di bianco che tengono in mano delle lanterne, stanno accendendo delle lanterne in un campo di fiori lilla, è tutto colorato di lilla più o meno. Più di così non ce la faccio. Se qualcuno ha capito, mi scrive al 349-238-6666 che quadro è, altrimenti andate a vederlo sul profilo Facebook del programma. Ma ancora, la libertà che guida il popolo di Delacroix, Chiara, Giancarlo, Davide con la testa di Golia di Caravaggio, Salvatore, silenzio di Jean Miró. Joan, quindi la pronuncia è Joan. 349-238-6666. Questo è uno degli argomenti di oggi. L'altro argomento di oggi invece, appunto, in questo caso, parlando del protagonista di questa storia, è la dislessia. Io non ne sapevo nulla di dislessia fino a qualche giorno fa, quando ho avuto la fortuna di incontrare una persona, un americano, che è un attore, un produttore cinematografico, televisivo, eccetera, eccetera, che in una parola si chiama... anzi in due parole si chiama Henry Winkler, in una sola si chiama Fonzie. Vi ricordate Fonzie? Ce n'è uno di Fonzie e c'è un pezzo di Fonzie in tutti noi. Per motivi che non sto qui a spiegarvi, ho avuto la fortuna di farmi quattro chiacchiere con Henry Winkler. Henry Winkler era qui perché presentava un libro che lui ha scritto sulla dislessia, perché Henry Winkler è dislessico e diceva che quando era piccolo tutti quanti gli insegnanti gli dicevano: tu non farai nulla nella tua vita perché sei pigro, perché non ti impegni, eccetera, eccetera, fino a che una notte ha fatto un sogno, ha sognato di diventare un attore e ha fatto di tutto per diventarlo. Da qualche tempo però Henry Winkler scrive dei libri che raccontano la storia di un bimbo, di un ragazzino che è dislessico ed è dedicato sostanzialmente a tutti i ragazzi, in particolar modo a quelli che hanno questo problema, che è un disordine cognitivo e che fanno fatica a leggere. È scritto anche in un modo, con un carattere ben preciso, in modo che chi soffre di questo disagio, questa malattia, possa leggerli. In America ne sono uscite 17, è una serie di libri. In Italia è uscito il primo pochi giorni fa e voglio leggervi un pezzo, perché questo pezzo spiega dal punto di vista del protagonista che cos'è la dislessia e ti fa capire che cosa ti capita quando devi fare una cosa che per gli altri è normale e per te non lo è. Si chiama Hank Zipser e le cascate del Niagara e a parlare è il protagonista. Voglio che scriviate un paragrafo d'apertura e un paragrafo di conclusione e tre paragrafi di svolgimento, stava dicendo la maestra, la signorina Adolf. Io allora ho alzato la mano. Scusi, quanto deve essere lungo ogni paragrafo esattamente? Ho chiesto. Tutti hanno riso, che era un fatto strano, visto che non stavo cercando di essere divertente. La signorina Adolf non ha riso. Aveva delle chiazze rosse sul collo, tipo quelle che vengono a mia sorella Emily quando è veramente arrabbiata. «Bene, Henry», ha detto la signorina Adolf, pronunciando il mio nome come se avesse un cattivo sapore. «Lo scopriremo proprio da te, visto che sarai il primo a leggere ad alta voce il tuo compito alla classe». «Henry Zipser, lunedì alle 9:15», ha detto. «Siamo tutti impazienti di ascoltare il tuo tema per quell'ora. È chiaro, Henry?» Ha steso una mano per togliersi un piccolo pezzo di lanugine dalla camicia. Era così piccolo che ci voleva il microscopio per vederlo. Ha tenuto il pezzo di lanugine in mano e lo ha portato con cura fino al cestino. Quando lo ha gettato, credetemi, non ho visto niente cadere dalle sue dita. Mi sono chiesto perché la signorina Adolf fosse tanto preoccupata per un pezzo di lanugine. Non è che poi abbia un gran bell'aspetto. Le uniche cose che si mette sempre indosso sono una gonna grigia e una camicetta grigia, che si abbinano coi suoi capelli grigi e gli occhiali grigi, per non parlare della sua faccia grigia. «Ricordatevi, ragazzi», disse, «sono 5 paragrafi. E anche essere ordinati è importante. Vorrei che fosse il vostro lavoro migliore, compreso te, Henry». «Sorridi, Hank», ho pensato tra me. «Fassi con la testa, su e giù. Puoi farcela. 5 paragrafi, dov'è il problema? Hai 6 giorni di tempo». E poi ho pensato che no, che era inutile prendermi in giro, che non sono nemmeno capace di scrivere una sola frase corretta. Come posso scrivere un intero tema di 5 paragrafi? È come se la signorina Adolf mi avesse chiesto di scendere con gli sci dal Monte Everest all'indietro, bendato e a culo nudo. Questo pezzo è un pezzo tratto da questo libro che si chiama Hank Zipser e le cascate del Niagara, che è scritto da una persona che ha problemi di dislessia, che è Henry Winkler, che è Fonzie sostanzialmente, per tutti, per bambini che hanno questo problema e per bambini che non ce l'hanno questo problema, e forse anche per adulti, più o meno. 349-238-6666, si parla un po' di questo oggi e un po' di opere d'arte. Il quadro che vi ha illuminato in un secondo, l'avete guardato e avete capito. Perché? Perché vi chiedo questo? Per questo motivo qui. Mi chiamo Gaia e sono un'educatrice professionale. Parte del mio lavoro è centrato sull'assistenza scolastica, sostenere bambini e ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento o di relazione. È un bel lavoro, a volte un po' complicato. Tempo fa ho lavorato con un ragazzo dislessico. Può sembrare strano, ma la sensazione era quella di ricominciare ogni mattina a scalare un muro liscio. Ogni giorno sembrava salire di un pezzetto, ma poi ci ritrovavamo sempre a terra. Per quanto tutti lo considerassero simpatico e brillante, il muro della dislessia continuava a stare lì. La fatica nella lettura lo portava a dare per scontato di non sapere fare nulla. Quindi, tanto valeva non mettere troppo impegno, no? In niente. A sua detta, lui non sapeva fare niente. Ed essendo dislessico, mai avrebbe imparato. E se per caso avesse imparato un mestiere, comunque non sarebbe mai stato bravo abbastanza. Insomma, il giovanotto sembrava avere nessuna idea e nessuna opinione. Sembrava non aspirare a niente, non avere gusti né passioni. Dopo mesi di lavoro mi sembrava di aver girato in tondo. Faceva quello che dicevo senza commentare, senza chiedere mai nulla. In generale mi ascoltava senza neppure cercare di rispondere alle domande che facevo. Tanto avrebbe comunque dato risposte sbagliate. Per un po' sono rimasta spiazzata dalla sua negatività cosmica, imbattibile. Mi sembrava impossibile che non ci fosse neppure una scintilla minima di interesse. Poi un giorno la classe lavorava sulla lettura di alcune immagini. Dovevano ipotizzare, senza conoscere le opere, quali fossero i soggetti e il messaggio che l'artista voleva trasmettere. A lui è capitato Guernica. A me veniva da piangere. Con tutte quelle linee e immagini spezzettate, ho pensato che non sarebbe riuscito a capirci nulla. E già lo vedevo fissarmi, apatico, in attesa che io gli dessi una risposta. Lui invece guardò il libro concentrato e lentamente disse: «Hanno paura. È notte. Stanno scappando». E quando ho alzato gli occhi ho visto la scintilla, la prima volta che mi guardava senza bisogno di conferme. Grazie a Pablo Picasso che ci ha dato un appiglio. Non comodissimo, anche un po' in alto, ma da lì abbiamo ricominciato a salire. Circa un paio di mesi fa io ho ricevuto questa mail, concisa ma molto precisa. Ciao Matteo, sono Alessandro. Io stavolta vorrei bere un succo di frutta con te. Posso venire a trovarti venerdì? Ciao, Ale. E dopo pochi minuti ho ricevuto quest'altra mail. Ciao Matteo, sono Noemi, mamma di Alessandro che ti ha appena scritto. È passato un bel po' di tempo senza che Ale mi dicesse niente di te. Poi di punto in bianco, un pomeriggio di un paio di settimane fa, mi ha detto che doveva andare a trovare Matteo Caccia e che stavolta prendeva succo di frutta. Riassunto. Quasi 12 anni, prima media. Mondo nuovo che si spalanca davanti e gran voglia di prendere iniziative senza la mamma. Poi, non lo so, magari l'emozione sarà troppa e si bloccherà, ma il fatto che gli sia venuto il desiderio di venire a trovarvi è una bella cosa. Ce la fai a ritagliarti un quarto d'ora? 5 minuti, venerdì prossimo, al termine della trasmissione. Grazie mille, Noemi. Io mi ricordavo molto bene Alessandro, però Noemi, sua mamma, giustamente mi ha scritto per chiarirmi il tutto, pensando che non mi ricordassi più. È andata così. Lo scorso anno mi scrisse proprio lei, Noemi, per dirmi che suo figlio Alessandro, che ha un problema di autismo, tornando in auto, dopo dei corsi particolari che segue, ascoltando la radio canticchiava la sigla e poi diceva il mio nome. Quindi mi scrisse per chiedermi di incontrarlo e quindi ci vedemmo un giorno fuori dalla radio, qui sotto. Alessandro però era un po' timido e dopo poco se ne andò insieme alla mamma. Io in quell'occasione gli proposi di bere un succo di frutta al bar qui sotto alla radio. Lui però declinò l'invito finché, un anno dopo, è saltato fuori che voleva bersi quel succo di frutta con me. Quando sono tornati qui alla radio dopo una diretta, un pomeriggio, erano più o meno le 5, Noemi lo ha accompagnato fino al bar e poi è uscita e siamo rimasti io e lui con il nostro succo di frutta. Non appena lei se n'è andata abbiamo iniziato a parlare serenamente, senza mamme di mezzo, la sua e nemmeno la mia, che è vero che non mi accompagna al lavoro, ma questa è un'altra storia. Abbiamo parlato un po' del programma e un po' della scuola e dei suoi compagni e poi di altre cose che non sto qui a dirvi perché rimangono tra me e Alessandro. E per quel poco che siamo rimasti insieme siamo diventati un po' amici, io e lui, in un modo fatto di poche parole e tanta presenza, come se già il fatto di essere lì insieme a berci un succo alla pesca a un tavolino fosse una specie di dichiarazione di reciprocità. Io sono qui per te e tu per me. Non c'è stata nessuna rivelazione come è successo per Gaia e il ragazzo che lei segue. Nulla se non una chiacchierata tra due persone che hanno 25 anni di differenza e un succo di frutta in comune. E non so se Alessandro sta ascoltando, però visto che non mi ricordo se gli ho detto l'ultima volta che l'ho visto di venire qui, glielo dico. Se vieni qui, uno dei prossimi giorni ci prendiamo un altro succo. Disco dei Vampire Weekend, qui a Voi Siete Qui, trovate comunque i titoli dei brani, come vi ripeto sempre, sul sito della radio, la nostra pagina, Voi Siete Qui. Se ci andate adesso sul sito della pagina, secondo me è in evidenza il programma. Funziona così, vero Marghe? Se uno va sul sito durante la diretta, c'è in diretta, giusto? quindi potete cliccare, perché altrimenti uno deve fare un altro giro, altrimenti va in programmi, giusto? Rudy, lo chiedo anche a te, stammi un po' più sul pezzo, se vai in programmi, giusto? Devi scorrere fino alla V. No, mi guardate come un imbecille, però, no, sono tutti assieme se clicchi su programmi, però, giusto? Vabbè, comunque lì ci trovate la foto del protagonista della puntata, non oggi perché appunto Gaia ha declinato l'invito, però trovate i brani che mandiamo, tra cui quest'ultimo che avete appena sentito dei Vampire Weekend. 349-238-6666, anche sul profilo Twitter mi scrivono di quei quadri che in qualche modo li hanno illuminati: Alvise, il giardino della clinica di Van Gogh, Fernanda, Giobbe e la moglie di Georges Delatour, il mistero della tenerezza umana e la sofferenza. C'è sempre un po', un commento, diciamo il nome e anche il commento al quadro. Il quadro di Goya è il 3 di maggio del 1808, fantastico sulla fucilazione del 3 di maggio del 1808, quadro che poi ha ispirato anche Picasso. Oggi in realtà parlavamo di Guernica, vi ricordo che dopo la borsa avremo non solo una breve spiegazione, se ha senso spiegare un quadro, ma la storia di quel quadro, come è nato, perché Picasso, che tra l'altro abbiamo scoperto, grazie per avermelo scritto, era dislessico anche lui, appunto avremo una descrizione, una spiegazione di quel quadro fatta da Marco Carminati, che scrive per la Domenica del Sole 24 Ore, anzi è il capo della sezione arte. Detta giusta? Sì, ce l'abbiamo fatta. Vi ricordo 349-238-6666, volevo parlare del live, ma lo faccio dopo a questo punto, se abbiamo tempo. Comunque vi do la data, è ufficiale, se venerdì non l'avete sentita, giovedì 27 giugno alle 21.30, qui nella sede di Radio 24, come al solito gratis, come al solito ci sarà un modo per iscrivervi che vi diremo più tardi. Voi siete qui. Guernica. Guernica il Uno, cittadina della Spagna settentrionale, provincia di Biscaglia. Fu rasa al suolo durante la guerra civile, aprile 1937, dall'aviazione tedesca in appoggio ai franchisti. All'episodio è ispirato un dipinto di Pablo Picasso, presentato nel padiglione spagnolo dell'Esposizione Internazionale di Parigi del 1937, Museo Reina Sofia di Madrid. Reina? Mi dicono dalla regia. Museo Reina Sofia di Madrid. Che poi, la frase che tira fuori l'allievo di Gaia davanti a un quadro come Guernica, cioè quella sorta di spiegazione che lui dà in una frase, in tre parole, che è illuminante per lui, per lei e probabilmente per chiunque fosse vicino a lui davanti a quel quadro in quel momento, è un po' quello che noi vorremmo avere davanti alle opere d'arte, no? Cioè parliamo da persone che non conoscono la storia dell'arte, non conoscono, non hanno delle chiavi di lettura per interpretare un quadro. A tutti quanti piacerebbe porsi davanti a un'opera d'arte e dire: ah, ma certo, è così, così e così. Visto che a me non è mai successo, e vorrei capire se esiste un modo o se semplicemente è normale che in alcuni casi succeda ed altri no, come spesso facciamo, lo chiediamo a qualcuno che ne sa più di noi o più di me in assoluto. Abbiamo fatto due piani, o un piano, non so quanto sopra di noi è rispetto alla radio, e abbiamo trovato il responsabile delle pagine dell'arte della Domenica del Sole 24 Ore, che è Marco Carminati. Pronto Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ciao. Come stai? Bene, bene, grazie mille. Sei uno o due piani sopra noi? Non mi ricordo mai. Sono solo un piano sopra di voi. Ok, sei proprio... perché ci si incrocia al bar e qui ogni tanto, però non ho ancora capito. Io mi fermo al primo piano della grande serra del Sole 24 Ore. Non so cosa c'è sopra, mi piace immaginarlo come un po' come il mega direttore generale, ovviamente, con le poltrone in pelle umana. Vabbè, torniamo a noi, Marco. L'hai sentita la storia dell'allievo di Gaia, no? Che, sì, è una storia molto toccante, anche commovente per certi aspetti, perché insomma si è risanato davanti a questo il termine risanato, direi che sia, ha una sua logica, perché lui dice, guarda, ritrovo la frase, lui dice esattamente così: guarda Guernica e dice: hanno paura, è notte, stanno scappando. Beh, senza volerlo offre una delle chiavi di lettura di questo dipinto, che venne realizzato nel 1937 da Picasso, praticamente in un impeto di sdegno. Ecco, per capire le opere d'arte bisogna sempre un pochettino informarsi, perché chiaramente solamente la visione certe volte ci lascia un po' a digiuno. Quindi questa è già una chiave di lettura, no? Cioè, prima di andare a una mostra, due cose sull'autore o sul periodo storico è meglio saperle. Conviene. Okay. Anche perché si gode di più, perché si trova conferma poi nell'opera d'arte. Comunque in questo caso Guernica era successo, sì. era successo questo. Picasso in quel periodo si trovava a Parigi e in Spagna, la sua nazione d'origine, era scoppiata la guerra civile, come sappiamo, da una parte i repubblicani e dall'altra i nazionalisti di Francisco Franco che si uccidevano sostanzialmente. Sì. A Parigi nel 1937 viene istituita l'esposizione universale e la Spagna repubblicana, per la quale Picasso parteggiava, Picasso era un repubblicano convinto, istituisce il suo padiglione e chiedono proprio a Picasso di fare una decorazione, un dipinto all'interno. Quindi è su Picasso commissione. All'inizio pensa di prendere in giro Francisco Franco. Okay. Il primo soggetto è proprio un ritratto orrendo di questo signore, un ritratto come un buffone con le budella penzoloni, con la bocca piena di cimici. Ma che, scusa Marco, è ancora in giro? Esiste quest'opera? Sì, sì, cioè, in realtà la interruppe. Perché? Perché il 27 di aprile del 1937 sì. dai giornali viene a prendere la notizia che è stata bombardata la città di Gernika, cioè la capitale culturale della nazione basca. Per lui è un colpo al cuore, perché tra l'altro era la prima volta che l'aviazione, in questo caso nazifascista, sì. Bombardava una città. Poi noi sappiamo purtroppo che negli anni accadde a venire le città saranno bombardate più spesso, come certo. da tutte quante le aviazioni. Mette da parte il quadro di Francisco Franco e decide di farne un altro, proprio d'impeto, e realizza questa colossale composizione, perché Guernica è un quadro grandissimo. Quanto è grande più o meno? Guarda, è alto quasi 3,5 metri e lungo quasi 8, quindi un dipinto, una tela di gigantesche dimensioni, e comincia a fare come un forsennato degli abbozzi, abbozzi su abbozzi. Tra l'altro fa fotografare tutte le fasi preparatorie da questa sua nuova fidanzata, nonché bravissima fotografa, che era sì. Dora Maar. Quindi questo quadro paradossalmente diventa piano piano famoso mentre lo sta facendo. E che cosa fa nel dipinto? Ecco, il dipinto è come diceva questo ragazzo, buio. Cupo, perché naturalmente certo. il bombardamento genera il buio, il terrore, le persone fanno dei gesti concitati, ci sono membra straziate, ci sono dettagli dove si vede molto bene che la paura è l'elemento dominante, quindi questo ragazzo ha colto in pieno questo soggetto. Picasso mette però qua e là delle figure che sono delle allegorie che lui stesso spiegherà. Per esempio c'è un toro che è il simbolo della forza bruta, ma c'è il cavallo che è un simbolo nobile, il simbolo del popolo, e poi curiosamente ci sono delle lampadine e delle luci. Picasso stesso spiegherà, quella è la verità che comunque prevale, e noi questo quadro dobbiamo farlo per farlo vedere al mondo. Infatti Guernica per gran parte della sua storia sarà un quadro itinerante, verrà portato in giro per tutto nonostante, il mondo. Nonostante le dimensioni? Nonostante le dimensioni, infatti si danneggerà, adesso non si può più muovere perché è stato danneggiato troppo dai viaggi. E dove si trova adesso? Adesso si trova in Spagna, al Museo Reina Sofia. Perché? Perché Picasso decise che non vendette mai questo dipinto, lo mantenne sempre per sé e lo usò come manifesto della follia, della guerra e del nazismo, sì. facendolo girare nel mondo. Poi a un certo punto, durante l'ultima guerra mondiale, rimase a lungo al MoMA negli Stati Uniti perché era al sicuro sostanzialmente. Certo. Venne anche a Milano nel 1953, Picasso permise che venisse esposto nella Sala delle Cariatidi, che era stata bombardata a Palazzo Reale. Certo. E poi stabilì che il giorno in cui la Spagna sarebbe diventata di nuovo una democrazia e una repubblica, sì. il quadro sarebbe stato destinato al suo popolo, alla Spagna. Ah, okay. Picasso morì nel 73, nel 75 morì anche Franco, e come sappiamo Franco decise che il suo successore sarebbe stato il re attuale, Juan Carlos. Sì, sì. Gli americani che detenevano il dipinto nel 1981 stabiliscono che la Spagna non è una repubblica come avrebbe voluto Picasso, ma comunque era una democrazia, e quindi restituiscono il dipinto che fece certo, un viaggio in aereo e tornò a casa praticamente. A Madrid. Marco, sì. ti ringrazio molto, davvero sei stato precisissimo e hai spiegato tutto in maniera perfetta. Prima di salutarti, qual è il quadro che quando l'hai visto ti ha illuminato e ti è sembrato di dire in una frase un sunto che poi era quello giusto? Ti è mai capitato? Guarda, in realtà non ne ho un quadro così determinante. Certamente i quadri di Piero della Francesca, cioè di questo grandissimo pittore italiano del 400, mi hanno sempre molto colpito, perché sono una sintesi straordinaria di quella che è l'idea di cui tutti noi abbiamo bisogno, cioè di una bellezza suprema, l'idea che ci sia un'idea di armonia, di ordine, di equilibrio alla quale poter fare sempre riferimento anche nei momenti complicati della vita. Ecco, l'arte ogni tanto ci mette davanti alcuni valori che sono dei valori ai quali possiamo attingere anche quando tutto il resto contraddice questi valori. Mai stati così alti come in questa telefonata. Grazie ancora, ecco, a Marco Carminati, responsabile delle pagine di arte della Domenica del Sole 24 Ore. Ciao Marco, grazie mille. Grazie a te, ciao. Buona giornata. Ciao, ciao. E di nuovo, 349-238-6666. Eccolo qua, l'avevo trovato mentre parlava Marco e l'avevo messo da parte. Ringrazio chiunque mi abbia mandato questo messaggio. Il dipinto menzionato dall'ascoltatrice sul profilo Facebook, quello che prima ho descritto con i due bambini e le lanterne giapponesi, deve essere sicuramente Garofano Giglio Giglio Rosa, studio di John Singer Sargent, ed è esattamente quello. L'abbiamo, la solerte Margherita Ina l'ha cercato e ha trovato anche addirittura una definizione. L'opera si chiama Carnation Lily Lily Rose, che appunto significa Garofano Giglio Giglio Rosa. La storia di questo Singer nasce a Firenze, muore a Londra, si parla 1850-1925. Disse che ebbe questa ispirazione, ebbe modo di vedere lanterne giapponesi appese tra gli alberi e i gigli. Invece continuano ad arrivare messaggi in cui si spiega qual è il quadro che in qualche modo ci ha illuminato, vi ha illuminato e vi ha reso anche delle persone diverse. Matteo, per me è Déjeuner sur l'herbe di Manet, folgorata a 16 anni per sempre. Paola 50 anni, Paola 50, immagino voglia dire Paola 50 anni. L'isola dei morti di Böcklin mi ha dato indizio del concetto di pace, e lo dico da ateo, firma Davide. E poi c'è questo messaggio di Claudia, che è un messaggio che ha senso, perché l'opera d'arte viene fruita spesso, appunto, come sto facendo io, no? Su un tablet, sullo schermo di un computer, su un libro quando sei a scuola, perché è un modo per riprodurlo, no? È quello, c'è un supporto e ci metti l'immagine. Altra cosa invece è andare a un museo e vederselo davanti, vedere proprio le pennellate. Le ninfe di Monet, viste decine di volte in pannelli, in diversi musei, viste in poster, ho sempre pensato che bel quadro. Poi sono andata all'Orangerie a Parigi, nella loro sala, e sono scoppiata in un pianto a dirotto. 349-238-6666, già arrivato un messaggio che chiede qualcosa di più del live finale, dell'evento finale. Allora, vi ripeto, non è ancora partita la macchina delle iscrizioni, che partirà come è partita l'anno scorso, in un modo molto semplice, dal sito radio24.it. Ci sarà un form, una pagina, sapete, di quelle da compilare, come quando dovete mettere i dati della carta di credito, solo che non vi chiediamo dati della carta di credito, immagino, no? Dovete solo mettere il vostro nome, da dove venite, eccetera eccetera, e quella cosa lì vi dà accesso alla prenotazione, e a quel punto credo che vi arriverà una risposta automatica, ancora giusto, non siamo sicuri. Allora, perché mi fate dire robe quando non sappiamo niente? L'unica cosa che sappiamo è che è il 27 di giugno, giovedì, 21:30, tutto gratis, 10 storie prese dall'intera stagione, lette, raccontate e con la presenza in loco di chi le ha scritte. Anche questa credo, non siamo ancora sicuri, però vabbè, ma io la butto lì. Fabio, sì, sì, Tiziano dice sì, ci saranno, almeno le persone che hanno dato i racconti. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Fabio Cantadori, Margherita Ine e Tiziano Bonini. Grazie soprattutto, anche se non è stata con noi, a Gaia. La storia di oggi era la sua, e anche lei è un punto rosso su una mappa. Sono Francesco Di Paola, vivo a Torino, e la storia di domani è la mia e parla del movimento Cassina. Questa è la mia storia e io sono qui.